Per quanto riguarda invece gli attori della post-poesia, quello che va detto è che tendono a pensare il proprio lavoro come qualcosa che sta al di fuori della sfera della poesia. Il che ovviamente non significa che le istituzioni a quella sfera non cerchino di riportarli di continuo. Per modificare le griglie della ricezione sociale, della scuola, della biblioteca, della libreria, eccetera, per uscire dalla poesia non basta in effetti dichiarare di volerlo fare, neppure se ci si è armati di una pratica che sembrerebbe confermare tale dichiarazione. Per meglio comprendere questa partizione tra dentro e fuori, teniamo presenti le contraddittorie strategie di due tra i poeti più coinvolti nelle avanguardie degli anni 60 e 70. Il primo, Jacques Roubaud, neopoeta, si assume il compito di confermare la poesia nella propria specificità irriducibile a ogni altra pratica, proponendo forme nuove. L'altro, Denis Roche, post-poeta, decide nel 1972 di porre termine alla propria esperienza poetica stricto sensu e di continuare inseguendo altre modalità, praticando altre forme di scrittura, indefinite dal punto di vista del genere, e approdando in ultima analisi alla fotografia. È a questo punto, tra l'inizio degli anni Ottanta e i nostri giorni, che cominciano ad apparire tipologie diversissime di testi. Oggetti testuali e oggetti specifici, di cui qui mi limiterò a segnalare in termini molto generali solo pochi tratti peculiari. Si tratta di oggetti che non funzionano partendo da un'interiorità creatrice o da un'esperienza personale e che escludono qualsiasi dimensione espressiva. Si tratta di oggetti che non si piegano a particolari intenzioni estetiche e che non fanno riferimento ad alcun sistema estetico di valore, convenzionale o modernista che sia. Si tratta di oggetti estremamente compromessi con le proprie modalità di produzione e riproduzione, per esempio sono inconcepibili senza i vari programmi per l'impaginazione o la manipolazione delle immagini e del suono. Si tratta di oggetti profondamente riflessivi, metatecnici e metadiscorsivi, fanno quello che dicono, dicono quello che fanno e rendono esplicito, cioè lasciano intravedere il modo con cui le rappresentazioni che ci formiamo condizionano le nostre percezioni e i nostri discorsi. Infine, ed è questo che li rende più immediatamente spettacolari, si tratta di oggetti caratterizzati da dispositivi di montaggio che loro stessi pongono in essere: citazioni, prelievi, campionamenti, loop, formattazioni, compressioni, restituzioni grafiche e via dicendo. Montaggio e trattamento di materiali eterogenei. Di fatto quello che poi succede è che tutti questi disparatissimi oggetti vengono letti e fruiti in contesti, parliamo soprattutto di riviste, in cui si ritrovano a coesistere con altri tipi di testi che a loro volta si autoproclamano poesia, in particolare poesia sperimentale. C'è quindi una certa prossimità. Quella che qui chiamiamo post-poesia vive cioè a strettissimo contatto con quella che qui chiamiamo riforma poetica o neopoesia. Nonostante questo, a me interessa soprattutto il fatto che per un certo numero di scrittori che producono tali oggetti, il riferimento alla poesia non è più sentito come necessario. La questione del lirismo, la questione delle differenze tra modalità e tonalità liriche, la questione della prosa o del verso, i dibattiti sulle immagini e via discorrendo, niente di tutto questo ha più alcuna pertinenza. I testi documenti prodotti all'interno di questi nuovi quadri non toccano più le problematiche letterarie della storia passata. In una situazione come questa la poesia non può più veramente avere luogo, la poesia ha già avuto luogo. È ovvio che di fronte al deficit e alla mancanza di una propria specificità, tutta una parte di questa pratica poetica contemporanea si ritrova ormai a contatto, in interazione, con gesti, oggetti e dispositivi provenienti dall'ambito dell'arte contemporanea e delle arti plastiche, installazioni, performance, video, multimedialità, eccetera. Non solo la poesia non viene più detta per mezzo di composizioni poetiche, ma si scopre oltretutto contaminata da immagini, da orizzonti sonori più o meno infralinguistici, da elementi coreografici, eccetera. Sempre più impura, la poesia non assomiglia ormai più a niente. Naturalmente, questa constatazione oggettiva va interpretata nel senso di un positivo incoraggiamento. E anche in condizioni come queste non è difficile capire perché la poesia contemporanea cominci a sentirsi un po' troppo costretta nel quadro dell'insegnamento letterario. Siamo ormai all'arte contemporanea, alla musica contemporanea, siamo alla poesia contemporanea.